Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Sotto la Maona, Ario sollevò i remi. Il caicio filava sull'acqua liscia, inerte come quelle prime ore del pomeriggio, solcando il velo di polvere e di carbone diffuso alla superficie. Il mandracchio, dalla lanterna alla pescheria, taceva. Sulle rive e sulle coperte dei velieri e dei rimorchiatori non una voce, soltanto, di quando in quando, alto in quell'ora soleggiata e quieta, senza un alito di brezza, il fracasso sferagliante e rapido del tramvai. Mentre il caicio si accostava velocemente alla Maona, tutta nera di pece, Ario stette a guardare come sgocciolavano sull'acqua le pale dei remi, che teneva sempre sollevati. Era solo a bordo. «Berto», pensò voltandosi un attimo verso la canottiera, «è già salito sul terrazzo per stare allerta, ma in caso di pericolo udrò il fischio». Temeva di no, specialmente se passava il tramvai. «E poi», pensò, «ci sarà il rumore che farò col trapano. Come non ci abbiamo pensato?» E guardò i propri piedi nella sentina, l'arnese di legno e di ferro che luccicava al sole. «Sarà meglio», si disse, «che stia allerta anch'io». Fece virare rapidamente il caicio, sfiorando appena l'acqua con la pala di un remo. Poi ritrasse entrambi i remi a bordo, balzò verso prua e puntellò le palme contro la ruvida murata nera. Era giunto. Senza tardare un attimo, si mise all'opera. «Il momento buono è questo», pensava, «finché nel mandracchio tutti riposano e molti sono sotto coperta. Più tardi qualcuno avrebbe potuto vederlo o udire il trapano». Spingendosi con le mani lungo il bordo della Maona, portò il caicio nel punto giusto, verso poppa. Ecco, la cabina era lì. Poi prese dalla sentina un arpione, di quelli che adoperano i muratori per saldare le impalcature, e dopo essersi guardato intorno, lo fece entrare con due o tre colpi di martello nel legno della murata. Guardatosi di nuovo in giro, e fatto a Berto, che vedeva ritto sul terrazzo della Virtus, un cenno come per dirgli «ora incomincio», si afferrò con la sinistra all'arpione e con la destra puntò il trapano sulla Maona, poco più su del filo dell'acqua. Poi, premendo con lo stomaco il trapano contro il legno, lo mise in azione, mentre con l'altra mano si reggeva all'arpione affinché il caicio non si scostasse. Quel lavoro, subito ai primi giri di manovella, si rivelò, per la strana posizione cui era costretto, con le ginocchia sul bordo del caicio in un malcerto equilibrio, molto più difficile e faticoso di quanto non avesse creduto. Gli dolevano le ginocchia e gli doleva lo stomaco e non aveva quasi cominciato. Il trapano aveva sgretolato appena il catrame che ricopriva il legno. Dovette ripulirne la punta, poi ricominciò. «Era meglio, pensava, se venivamo in barca tutti e due. Va bene che uno stia di guardia, ma come farò a bucare la Maona da solo?» Invece, un po' alla volta, fece il primo foro, il secondo, il terzo. Attaccato il legno, il trapano lavorava rapido. Non appena perforato il bordo, Ario lo tappava, trascegliendo un turacciolo nella sentina e avvolgendolo in un po' di stoppa. Era tutto in sudore e ogni tanto sospirava col respiro grosso. Guardava verso il terrazzo della Virtus, ove Berto era sempre ritto sotto l'asta della bandiera che in quella bonaccia si afflosciava inerte. A un moto che Berto gli faceva col mento, come per chiedergli «ce la fai?», rispondeva con un cenno di assenso. Poi, con le dita sporche di segatura, si riavviava i capelli che gli ricadevano sugli occhi e riprendeva. Si sentiva sempre più stanco e sudato, sporco, abbruttito, ma continuava quasi con ebbrezza. Lo prendeva in certi momenti lì sotto il sole, col trapano puntato e vivo contro la Maona, come un accanimento mai provato, teso, acre. Dunque è qui che vengono, si diceva. Da qualche giorno Lidia si fa possedere da Eneo qui dentro, nella cabina della Mauna. Berto lo sa, li ha spiati. La immaginava spogliarsi, togliersi il vestitino, togliersi tutto, lì, a pochi centimetri da dove egli stava ora lavorando, e poi, senza più nulla, stendersi sul giaciglio in attesa di Eneo. Il suo accanimento tra quei pensieri cresceva. Il trapano, premuto sempre più, entrava nel legno, forava, rompeva ed egli ansava, curvo, proteso. Ecco, era finito. Fece un cenno a Berto, sventolando la mano, poi tappò con un altro turacciolo quel terzo foro, l'ultimo. Era riuscito a fare tutto senza destare il cagnetto di un vegliero vicino. Afferrò i remi e, senza neanche riprendere fiato, vogò dritto via, verso le canottiere. Il più è fatto, pensava, e l'ho fatto tutto io, da solo. Berto non lo aveva nemmeno aiutato. Gli era venuta quell'idea, ma non aveva voluto fare nulla, tranne che stare allerta, là in alto, per il timore, Ario lo capiva, che egli aveva di Eneo. Era giunto in mezzo al mandracchio, quando si ricordò di non avere nella fretta neanche spiato nella cabina attraverso quei fori. Gli rincrebbe come se avesse potuto vedere chissà che, quasi Lidia fosse già lì dentro sul giaciglio, e sarebbe tornato volentieri indietro. Lasciò i remi ed ebbe un istante di incertezza. Poi riprese a vogare verso i pontoni, ma più lento. Lo aveva colto, a quell'immagine di Lidia supina lì dentro, un'angoscia e poi un impulso di ribellione, per cui strinse i remi con forza, pure vogando adagio sino a farsi male alle dita. No, non gli pareva possibile, sebbene quell'immagine lo torturasse e lo eccitasse. Viva! Infine, mentre stava entrando in una zona d'ombra rasente un vegliero, gli parve e si sentì girare il cervello con un'impressione acutissima, quasi di follia, che tutto il destino di Lidia fosse dipeso, in un certo momento, per un filo, da lui. E lui, soltanto adesso se ne rendeva conto, l'aveva fatta precipitare. Era stato quando la fanciulla, assediata da Eneo e maltrattata, sospettata, ingiuriata dai suoi, stava avvicinandosi a lui. Se le avesse dato retta quei giorni, facendole sentire un po' d'amicizia, si sarebbe sottratta, ne era certo, con lucidità disperata, alle provocazioni di Eneo. Passato quel momento, avrebbe superato il pericolo e tutta la sua vita poteva essere un'altra. Più ci pensava, sino a provare una fitta in testa, e più si sentiva responsabile, rovinosamente, della sua caduta. Respingendola da sé, con sprezzo e ostilità, in quel momento per lei così difficile, ora lo capiva, l'aveva buttata cieco nelle braccia di Eneo, l'unico che mostrasse invece di trattarla da amico. Si ricordò, con un sentimento che oscillava tra rimorso e il desiderio impossibile di tornare indietro, di quella sera, quanto lontana, che erano usciti trionfanti, felici, dal circo. Come la sentiva sua, tornando a casa sotto le stelle, nella notte ancor fresca del temporale, in mezzo ai monelli esultanti, e come gli appariva facile l'avvenire. Perché non era continuato tutto così? Perché non erano rimasti amici per sempre? Sollevò i remi. Il caicio entrava nello specchio liscio davanti alla canottiera. Sulla zattera vide Berto venirgli incontro. Acceso in viso, agitava un foglietto. «Che cos'è?» «Indovina! Sbrigati!» rispose, senza voglia di scherzare. «Mandrice e Pellegrini hanno vinto anche ad Amsterdam, alle regate preolimpioniche, un trionfo!» Ario si sentì le guance in fiamme. Balzò a terra. «Fammi vedere!» si precipitò sul telegramma. «Sì, era vero.» Ciò lo riconciliava col mondo, tutto a un tratto. Come se la giustizia fosse possibile. Valeva la pena di lottare allora. Si poteva vincere. Poi si stupì. Non avrebbe mai pensato che la vittoria di Mandice Pellegrini potesse fargli tanto piacere. Con un senso di meschinità, di fastidio e anche quasi di avvilimento, di vergogna, si ricordò della Maona, di Lidia, di Eneo. Come tutto gli appariva oscuro e misero. Anche il Mandracchio e i Pontoni, tutto, al confronto di quella vittoria di cui parlerebbero dall'uno all'altro continente tutti i giornali e le radio del mondo. E sentì anche qualcosa come un'impressione di rivincita di fronte a Eneo. «Mandric e Pellegrini sono poco più grandi di noi», esultava. «Sono due dei nostri ed eccoli già famosi», mentre Eneo ha fatto fiasco. Pensava adesso a quei due ragazzi, quasi studenti, che lui e Berto conoscevano appena, perché lì sulla Virtus non avevano, come tutti del resto, mai fatto attenzione a loro come a due vecchi amici. Più tardi, invece, passata la prima esaltazione, capì che quella, lì nel vecchio Mandracchio, con Lidia ed Eneo, restava, malgrado tutto, la sua vita. E sentì per questo legame, tanto più forte quanto più lo detestava, con tutto ciò che gli stava attorno, persino una lieve e involontaria solidarietà con Eneo. Berto, frattanto, gli parlava d'altro. Aveva cominciato a interrogarlo. «I fori», diceva, «li hai aperti proprio bene? E li hai fatti come ti ho raccomandato, poco più su del filo dell'acqua?» Ario annuiva. «Perché non vai a vederli?» Berto non rispose. «Tra poco», continuava, «verranno gli uomini a colmare la Maona». Ario sapeva già. Berto gli aveva spiegato. La Maona non era ancora carica del tutto. Nel pomeriggio dovevano venire gli scaricatori a colmarla. Avrebbero preso il carbone sulla riva, dal vagone sganciato apposta lì davanti. «La linea di galleggiamento», Berto disse proprio così, calcando su quelle parole, «salirà col nuovo peso quel tanto da far restare i fori sott'acqua. Capisci?» «Ma sì, me l'hai già spiegato!» Berto rifletteva e una ruga gli si incise tra le sopracciglia. «A meno che...» si morse il labbro. «Non avrai aperto i fori troppo in alto?» «No, te l'ho già detto!» «Ma perché non vai a vederli?» Berto evitò da capo di rispondere. «Te li immagini loro due?» esclamò. «Quando l'acqua comincerà a entrare nella cabina?» «Balzeranno fuori come impazziti! Lidia, voglio vederla, quella scema sporca! Te la figuri? Roba da vederla saltar fuori nuda!» Ario si sentì il sangue alle tempie. Gli restò poi soltanto un'impressione di sgomento. «Non siamo pazzi noi?» si domandava. «A fare una cosa simile?» No, valeva la pena di farla, anche se si rischiava. «Eneo!» pensava, «lui sì che sarebbe bello vederlo quando avrò tolto i tappi e l'acqua comincerà a scrosciargli addosso. Chissà come balzerà in coperta!» Provava, tra queste immagini, una soddisfazione larga, acre e viva. E l'andò gustando per un pezzo, durante quel pomeriggio che rimase, nella sua memoria, il più lungo che avesse mai vissuto. Ti stesi al sole, sul terrazzo in cima alla Virtus, di dove lo sguardo poteva spaziare su tutto il Mandracchio, Ario e Berto un po' parlavano e un po' tacevano. Era l'ora calda. In sacchetta s'udiva appena un chioccolio d'acque ferme e s'udiva, lì dove erano i due ragazzi, il ronzio di un moscone. Veniva sopraffatto di tanto in tanto dal fracasso irruente di un tram e poi riprendeva. Distesi proni vicino alla balaustra, sotto la bandiera che continuava a pendere inerte, Ario e Berto guardavano sull'acqua, viva qua e là di chiazze iridescenti di petrolio. E di tratto in tratto veniva, ora all'uno, ora all'altro, di guardare verso la Maona. Sebbene non ne parlassero, il loro pensiero era là. Quante ore potevano mancare? 4, forse, o più. Prima delle 6 o delle 7 era difficile che Eneo e Lidia salissero sulla Maona. Videro gli scaricatori venire a fermarsi a gruppi nei diversi punti sulla riva ove sostava un vagone. Seguirono il lavoro dei 4 che completavano il carico della Maona. Due erano saliti sul vagone, in mezzo al carbone, e avevano preso a riempire a palate certi cesti rotondi e nerastri. Gli altri due, infilata la testa in un cappuccio di sacco, portavano i cesti sulla maona, reggendoli sulle spalle con le braccia nude. Anche quel lavoro finì. La maona, dalla cui stiva si levava adesso tutto un cumulo nero, si era abbassata ancor più nell'acqua. Gli scaricatori, levato il cappuccio e raccolti i cesti, se n'erano andati. Quanto tempo era trascorso? Il sole era sempre alto. Immobili, Ario e Berto guardavano la maona calcolando di quanto poteva essere salita la linea di galleggiamento. Va bene, pensava Ario, adesso i tappi devono trovarsi sott'acqua. Era la 20ª puntata dell'Onda dell'Incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini, ciclo di Ad Alta Voce che, correggo, non è l'ultima puntata come è stato erroneamente annunciato, ma si protrarrà per altre due puntate perché appunto è stata ricalibrata su puntate più brevi e quindi continueremo ad ascoltare la lettura di Ferdinando Bruni dell'Onda dell'Incrociatore ancora lunedì e martedì, e mentre le puntate precedenti come sempre potete riascoltarle sul nuovo sito raiplayradio.it. Io vi ricordo che Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con la regia di Luigi Iavarone. Sono le 17.